Nessuno viaggia, nessuno incontra clienti, i clienti non vogliono incontrare nessuno, gli aeroporti sono vuoti, gli aerei non decollano, ma loro ci sono sempre. Meazza è la Rosciani, che è il virus, mai li incontri sulla sua strada. Avanti ragazzi, avanti così! Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Col pecorino toscana a mafarella, il parmigiano e il dolce latte sono sempre patate. Pecorino con la burrata, da sogni menzione più brava che mai mascarpone, il provellone. Buongiorno, Deborah, sei in ascolto? Sì. Cosa, sono in ascolto, cosa vi sentite? Siete escogitati? Vi lascio soli un giorno, tu e Marco Lombardo, e mi cattate fuori, mi tirate fuori allora, queste cosucce per avviare la trasmissione. Il problema è questo, Mauro, il problema è questo. Questa cosa sul petrolio, sì. Siamo stati molto preoccupati perché c'è stato un effetto molto preoccupante sui mercati, questo future sul WTI, so che sono tutti termini un po' ostili agli ascoltatori, però sono tutte tematiche finanziarie che ieri hanno agitato molto i mercati, allora io ho pensato, ma ritorniamo sulle cose concrete dell'agricoltura italiana, vediamo di puntare su qualcosa di un po' più gustoso e quindi ti vorrei proporre oggi un investimento nel cacio bond, il cacio che è il primo bond. Cacio ca- Sì. Esatto, è il primo caciocavallo di latte di bufala che si acquista oggi, però per essere consumato dopo una stagionatura di 2 anni. In questo modo ovviamente puntiamo sull'economia reale e sosteniamo anche la Coldiretti di Salerno, che ha pensato a questa iniziativa nata per contrastare la crisi provocata, tanto per cambiare, dall'emergenza coronavirus che ha provocato la chiusura di trattorie e ristoranti, e quindi naturalmente ne sono rimasti direttamente colpiti i consumi di prodotti freschi come la mozzarella di bufala campana DOP. E quindi tutto il latte in eccedenza in questo periodo, formato in caciocavalli di latte di bufala, si potrà salvaguardare l'intero comparto, che ovviamente non può fermarsi, ma visto che poi le consegne non possono essere effettuate magari seduta stante, tu prenoti con questo cacio bond la tua fornitura, che poi ovviamente potrai andare a ritirare solo fra qualche tempo. Il cacio future, insomma. È un cacio future. Esattamente, un cacio bond. Quindi, però ci è piaciuta. Compro oggi, lo lascio lì e poi lo riscuoto e mangio, soprattutto nel 2022. Questo è il senso, cioè esatto. Acquisto è un po', nel 2022. È un po' meglio del barile di petrolio. E soprattutto anche crea meno problemi di stoccaggio, che poi, se ho capito bene, sono quelli che ieri hanno portato a questo addirittura esatto. Valore in negativo a un certo punto di un future che era in scadenza. Va bene, ma guarda che anche oggi mi pare che la situazione sia, come dire, proiettata ad andare nella stessa maniera. Adesso vediamo un po' nel pomeriggio, ma il nervosismo è alle stelle. Allora, intanto noi di cosa parliamo in questa nostra ora con gli ascoltatori, cercando di fare sempre la nostra attività, per così dire, di servizio, cioè utilità per tutti quanti. Che programma allora, abbiamo? Che cosa è successo? Abbiamo un programma interessante perché, come tu sai, come succede quando ci sono momenti un po' particolari sui mercati finanziari e molti risparmiatori vanno a caccia di occasioni di investimento vincenti e quindi navigano su siti internet molto discutibili, è successo lo stesso in questo periodo in cui l'emergenza coronavirus ha obbligato un po' molti di noi a dare la caccia a mascherine, disinfettanti, dispositivi appunto di protezione personali, e quindi chiaramente, siccome la mamma dei furbi è sempre incinta, eccoli qua pronti che sono partiti molti siti di e-commerce e di tutti questi prodotti, che però in realtà i prodotti non li avevano, quindi ovviamente molte persone sono spinte ad andare a cercare questi dispositivi, per l'appunto magari lasciano le loro credenziali, i loro termini delle carte di credito, e poi però i prodotti non arrivano mai. Allora tutto questo mondo, che è molto in fermento, ha obbligato l'autorità garante della concorrenza e del mercato ad attivare i suoi alert, i suoi propri dispositivi di sicurezza, direi, e quindi è nata una task force della quale parleremo questa mattina. E quindi parleremo anche di eventuali frodi di cui potreste essere stati vittima. Se ce le volete raccontare, i numeri sono sempre quelli: 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS o WhatsApp. E tra l'altro così cercheremo anche di capire se qualcuno vuole segnalare all'autorità della concorrenza del mercato qualche cosa di cui è rimasto vittima, qualche incidente di cui è rimasto vittima, che percorso può preferire. Però c'è un primo tema che è abbastanza gettonato, per dir così. Sì. Perché so che ci occuperemo anche di affitti degli studenti, dico bene? Sì, hai fatto, perché io questa notizia, che era apparsa sulle vostre pregiate pagine del Sole 24 Ore, l'avevo data già ieri. C'era un quesito dell'Esperto Risponde che aveva suscitato molto interesse da parte degli ascoltatori. Tu pensa che anche ieri sera a Focus Economia, che io ho condotto al posto di Sebastiano Barisoni, ci sono stati degli ascoltatori che mi hanno scritto chiedendomi di ridare di nuovo l'informazione che avevo anticipato ieri mattina a Due di Denari. Praticamente, se si ha un figlio che studia fuori sede e la casa in affitto, in questo momento l'appartamento non si usa, si può risolvere il contratto, perché mi pare evidente che sia intervenuta una causa di forza maggiore. Ma insomma, questa faccenda ha fatto molto discutere. A quanto pare adesso ci sono i presupposti giuridici, se vogliamo, per definire questi contratti con i proprietari, e mi pare che possiamo scomodare anche un esperto del Sole, no Mauro, per chiarire. Certo, beh, a parte che noi come sempre anche oggi avremo esperti di valore mondiale, ma abbiamo proprio scomodato l'esperto che si è occupato di questa risposta. Sono i contratti per studenti universitari, ma ce lo chiarirà poi l'avvocato Matteo Rezzonico, naturalmente dopo il nostro giornale Radio del Risparmio. E abbiamo anche una cosa interessante, secondo me, per il DDD, che è il dillo a due di denari. Non sono le 4D poste dal governatore Fontana per la riapertura, sai, digitalizzazione, distanza, eccetera. Sì. No, le nostre sono molto più banali, sono un dillo a due di denari. Di là sorride, ma forse lo fa per compiacermi, Andrea Roccabella, da dietro i suoi occhiali e naturalmente dalla mascherina d'ordinanza. Più oltre vedo la deliziosa Laura Faggin, badante quest'oggi di prossimità, badante sul territorio, come sempre teleguidata con sapienza dall'ottimo Marco Lombardo. Grazie a tutte queste persone che rendono possibile la nostra trasmissione. Andiamo, Deborah, con il nostro GRR? Volentieri. Drin Drin, edicola Risparmio. Perché sul sito dell'INPS mi passi 100 euro l'INPS. Adesso non vorrei essere irrispettosa, ma questa modalità due di denari Village People mi fa impazzire, la adoro. Guarda, devo dire, ho un debole per questa parodia dei Village People, che anziché cantare YMCA cantano INPS, cioè IMPS. Perché la prima notizia riguarda proprio l'INPS. Ci state scrivendo in tanti, domani mercoledì, giornata del lavoro, torneremo sulle aiuti al lavoro, aiuti anche a chi è in questo momento senza lavoro, quindi anche ad esempio sui 600 euro, nella trasmissione di domani. Però intanto vi informo di una segnalazione che ci è arrivata proprio dall'INPS, INPS, cioè dall'INPS, cioè le domande di reddito e di pensione di cittadinanza possono essere presentate anche attraverso il sito internet istituzionale, quello www.inps.it. È una misura che l'istituto ha varato perché vuole venire incontro alle esigenze della cittadinanza e anche per fronteggiare meglio l'emergenza sanitaria. Finora si poteva utilizzare il canale delle Poste Italiane oppure la SPID, a un sito apposito www.redditodicittadinanza.gov.it, oppure si passava dai patronati e dai CAF. Questi percorsi restano validi, ma è stata estesa la possibilità anche al sito INPS istituzionale. Ci vuole il PIN dispositivo, naturalmente, e naturalmente anche la carta di identità elettronica. Il servizio, spiegano all'INPS, è raggiungibile nella sezione reddito di cittadinanza / pensione di cittadinanza. Bisognerà avere per questa prestazione, solo per questa, perché in altri casi l'ISEE invece è stata tolta, ma per la richiesta di reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, è sempre necessaria l'attestazione ISEE. Deborah. Allora, intanto che come dire, la politica si chiarisce le idee sulla ripartenza di tutte le attività economico-produttive del nostro paese, quindi la fase 2, diciamo che molti italiani sono già ben oltre e non si rassegnano al fatto che quest'estate non potranno andare in vacanza. E mentre tutta l'industria di categoria che è in grandissima difficoltà ha presentato in questi giorni il manifesto del turismo Ripartiamo dall'Italia, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus Economia, molti italiani invece così esplorano i vari siti che consentano di così prenotare delle vacanze per la prossima estate, e c'è una ricerca abbastanza precisa delle località che si vorranno frequentare la prossima estate, qualora naturalmente gli spostamenti saranno consentiti, anche se chiaramente si dovrà fare molta attenzione a tutte le questioni del distanziamento, ma non abbiamo ancora molti dettagli, ma sappiamo sicuramente che le vacanze di quest'estate saranno molto diverse da quelle degli ultimi anni. Allora, che cosa fanno gli italiani che sognano la vacanza? Secondo casa.it sono quadruplicate le ricerche di case in affitto in comuni, intanto costieri molto, molto noti, ma dove sarebbe possibile appunto prenotare delle case in una situazione di comfort molto alto, quindi si stanno ricercando case in affitto con piscina in Sicilia, in Liguria, in Toscana. Nelle prime due settimane di aprile a Palermo le abitazioni con piscina vengono cercate 6 volte di più rispetto ad un anno fa. Nella costiera Ligure è sicuramente Santa Margherita Ligure a fare da padrona questa tendenza, con un aumento di ricerche di ben 43 volte in sole 2 settimane. Forte dei Marmi conserva sempre il suo appeal, ha registrato un aumento delle ricerche del 200%, ma anche la costiera Livornese conferma l'esigenza di una casa con piscina, con un aumento delle richieste di questa tipologia di 12 volte superiore all'inizio della crisi. Vanno molto bene anche le case con giardino, ma insomma magari ne faremo poche, le faremo sofferte, le faremo distanziati, ma vogliamo a quanto pare una casa con un altissimo comfort, Mauro, possibilmente con piscina. Vedremo insomma dove potremo andare tra luglio ed agosto. E aspettando che in qualche modo ci siano meno limitazioni alla nostra possibilità di movimento, vi segnalo una cosa interessante sulle pagine di oggi del Sole 24 Ore. Sapete che il martedì ci sono sempre degli articoli dedicati al condominio. Noi abbiamo parlato delle responsabilità dell'amministratore di condominio, delle regole del condominio in questa fase di emergenza più volte qui a Due di Denari, anche la settimana scorsa. Da ultimo, oggi c'è un contributo del collega Saverio Fossati, che è un grande esperto di proprio della materia del condominio, che ci ricorda come l'amministratore sia tenuto ad assicurare la sicurezza in condominio, sicurezza quindi anche di tipo sanitario, quindi sanificazione, il ruolo della portineria, la raccolta dei rifiuti, sono tutti temi che in questi mesi stanno assillando gli amministratori e sostanzialmente sono riepilogati in questo articolo di Saverio Fossati. Ripeto, sul sito invece di Radio 24, www.radio24.it, potete ritrovare anche le nostre puntate più recenti che si sono occupate dei ruoli dell'amministratore, degli obblighi anche dei condomini in questa fase caratterizzata dal Covid-19. Proviamo a chiamarlo così, Deborah, magari si scoccia che non gli piace il nome e si toglie di torno. Prego. magari bastasse questo, Mauro, veramente mi metto qua in preghiera. Allora, l'ultima notizia riguarda la benzina, ma in realtà è una notizia non notizia, perché già ieri gli ascoltatori, appunto, quando nel corso della giornata abbiamo raccontato di questo tracollo in territorio negativo del future sul WTI, cioè del derivato sul greggio di riferimento americano, in molti hanno cominciato a dire vabbè, ma il prezzo alla pompa non scende, ma per quale motivo? Se le quotazioni internazionali salgono, il prezzo alla pompa si adegua immediatamente. Al contrario, invece, c'è il consueto fenomeno della vischiosità: al ribasso non scende. Non scende in Italia anche perché in realtà le quotazioni della benzina sono legate ad altre dinamiche. Abbiamo il Brent a Londra, il greggio del Mare del Nord, e abbiamo i prezzi industriali che sono i Platts. Quindi, quando questa questione americana si trasferirà, e forse succederà nelle prossime settimane, in Europa, su queste voci, allora vedremo qualche cosina di buono anche al prezzo, appunto, alla pompa di benzina in Italia. Per il resto abbiamo delle quotazioni stabili, secondo quanto osserva appunto il quotidiano Energia, che riporta generalmente i comunicati dei gestori, appunto, all'osserva prezzi carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico. Ma se noteremo, Mauro, che questa tendenza continuerà negli Stati Uniti, magari prossimamente faremo con qualche esperto qualche approfondimento per far capire bene agli ascoltatori per perché i prezzi alla pompa non scendono. Magari chiameremo un esperto su questo. Volentieri. Allora adesso io andrei con il DDDD, cioè il dillo a due di denari, e poi primo tema, l'affitto delle studenti universitari fuori sede. DDDD. Dillo a due di denari. Io vivo in città e ho la macchina parcheggiata praticamente nelle strisce blu, non potendola utilizzare perché ovviamente non posso sempre uscire come previsto dal decreto, dal DPCM vigente. E secondo voi corretto e lecito che gli ausiliari del traffico elevino multe per le auto parcheggiate nelle strisce blu? Vi ringrazio. Allora, no, in realtà le strisce blu sostanzialmente sono state rese gratuite pressoché in tutta Italia. Bisogna verificare perché sono competenze comunali, quindi soltanto il sito o gli uffici del comune, in qualunque modo siano raggiungibili, ci possono dare conferma di questa cosa. Però il traffico veicolare, essendo quasi scomparso da quando siamo appunto limitati nella nostra possibilità di movimento dal cosiddetto lockdown, il traffico veicolare è quasi scomparso e quindi molte automobili restano parcheggiate in strada, parcheggiate anche sulle strisce blu. Però ripeto, verosimilmente il comune ha sospeso l'applicazione di questi parcheggi a pagamento. Si può saperlo solo purtroppo andando a verificare uno per uno negli 8100 comuni d'Italia e nei vari siti, oppure ovviamente telefonando, raggiungendo l'ufficio del proprio comune. Andiamo allora con il primo tema. Andrea, una siglettina giusto per staccare, grazie. Torniamo a parlare di affitti fuori sede. Ieri, Deborah, hai raccontato che cosa ha scritto l'avvocato Matteo Rezzonico sul Sole 24 Ore, e sostanzialmente l'avvocato Matteo Rezzonico ha detto sì, si può recedere dal contratto di affitto per gli studenti universitari a certe condizioni. Il Covid-19 è una di queste condizioni. Allora io ho pensato di farti cosa gradita e di farla agli ascoltatori chiamando direttamente l'avvocato Matteo Rezzonico che è in linea. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto abbiamo riferito bene, siamo stati bravi, Deborah ed io, a riferire questo quesito e questa risposta apparsa ieri sul Sole 24 Ore? Direi sostanzialmente di sì, nel senso che la risposta ovviamente è più articolata e più complessa, nel senso che rispetto all'equilibrio di un contratto si impone una situazione esterna che pone una questione di emergenza sanitaria globale, quindi con dei lockdown, come abbiamo detto, divieti di circolazione, interdizioni varie, ed anche alle attività universitarie in generale. Quindi ciò detto, potremmo molti diciamo semplificando, ipotizzano che ci possa essere in questo caso un'impossibilità della prestazione o un'eccessiva onerosità della prestazione, il che personalmente non lo ritengo corretto, nel senso che la prestazione comunque è limitata, ma soltanto per un certo periodo, nel senso che di qui a breve si spera il coronavirus passerà e quindi l'emergenza pure passerà, cesserà. Quindi sotto il profilo dell'equilibrio del contratto, della risoluzione per eccessiva onerosità o per impossibilità della prestazione, francamente lo vedo poco. Ciò che però è importante sottolineare è che una norma specifica delle locazioni italiane, quindi non più in sede di inadempimento contrattuale, ma in sede di esecuzione del contratto, di effetti, efficacia del contratto, consente il recesso. Quindi il recesso può essere ovviamente per la scadenza prevista nella locazione oppure per gravi motivi. Sotto questo profilo è pacifico che un evento come questo costituisca un grave motivo per come lo intende la giurisprudenza, cioè un fatto imprevisto ed imprevedibile sopravvenuto, non volontario, Però c'è un altro aspetto su cui bisogna ragionare, e io posso solo darvi dei parametri, che è il che rende oltremodo onerosa la prosecuzione del rapporto. Ecco, su questo rende oltremodo onerosa la prosecuzione del rapporto si possono porre alcune difficoltà. Certo, perché allora, poi l'onerosità sì. È un requisito soggettivo, quello che è oneroso per me potrebbe non esserlo per lei e viceversa. Sì, diciamo che la giurisprudenza però si pone su un diciamo su profili di oggettività del contratto, nel senso che comunque l'onerosità deve essere vista in termini oggettivi. Voglio dire, faccio un esempio, se io dico soggettivamente a me non ne voglio più sapere di Milano, mi pare che il quesito era riferito ad un immobile sì. Su Milano, non ne voglio più sapere di Milano dopo quello che è successo, quindi me ne voglio tornare in Sicilia, questo non è un motivo che ti consente un recesso per gravi motivi. Tra l'altro nella lettera devi specificare qual è il grave motivo, quindi il grave motivo è semplicemente il Covid e il lockdown. Ora, io ragionerei in questi termini. Se la durata del contratto è un contratto per studenti universitari, può avere una lunga durata anche fino a 3 anni, è difficile che un lockdown, uno stop di 2 mesi all'uso dell'immobile possa incidere sulla gravosità della prosecuzione del rapporto. Quindi in quel caso è difficile che un giudice, proprio valutando nel merito, dica effettivamente su 3 anni, 2 mesi non sono nulla, e quindi è possibile che non ti consenta il recesso per gravi motivi. Però il contratto per studenti universitari ha un range di durata prestabilito che può essere da 6 mesi a 3 anni. Sotto questo profilo è chiaro che se il contratto ha una durata per esempio di 1 anno e io ho un blocco di 4-5 mesi, ecco che si rende possibile il recesso motivato dal grave motivo costituito dal Covid, perché su 12 mesi o addirittura ipotizziamo su 8 mesi io ne godrò soltanto 5 o 6 perché diciamo sostanzialmente non ho c'è questo problema, e questo problema è un dato oggettivo che sopravviene, non è voluto e quindi e consente il recesso. C'è una domanda interessante, Deborah, qui via WhatsApp, ma sì. A volte i contratti per gli studenti universitari sono più soggetti, cioè più studenti nello stesso stabile, nello stesso esatto. Immobile. Se uno vuole recedere ma gli altri due invece no, che succede, avvocato Rezzonico? Nulla di particolare è previsto, lo si prevede anche negli accordi locali, nel senso che proprio per le locazioni per studenti universitari che hanno questa caratteristica, addirittura locazione di stanza con parti condivise, in questo caso il recesso per gravi motivi può essere anche semplicemente richiesto da uno degli studenti e non da tutti, perché imponiamo il caso a settembre, è possibile che qualcuno comunque dice ho perso questi 4-5 mesi di locazione, ma io a settembre voglio ritornare in quell'immobile, voglio proseguire i miei corsi a Milano all'università statale piuttosto che cattolica, e quindi proseguire nel rapporto. Quindi io recedo, io personalmente, ma i miei coinquilini invece ritengono proficuo rimanere certo. All'interno dei locali. Sì. Mauro, forse vale la pena anche così fare una domanda sulla forma, no? del recesso del contratto, perché non è che anche se si è d'accordo sulla causa di forza maggiore che determina la il contratto, non è che uno decide da un giorno all'altro non si presenta in abitazione, non paga più, no? Bisogna evidentemente anche dare una comunicazione preventiva, avvocato Rezzonico. Quindi qual è la miglior forma per poter essere in regola fra le due parti nel caso in cui si concordi sul fatto che questa causa di quindi il contratto si può risolvere? Allora, direi che è necessario inviare una vera e propria lettera di recesso dal contratto in cui il conduttore comunica al proprietario la sua intenzione di recedere per gravi motivi, specificando quali siano questi gravi motivi, quindi il decreto ministeriale, da ultimo quello del 10 aprile del 2020, oppure la stessa emergenza nota, si può anche mettere con una frase generica facendo riferimento alla nota emergenza sanitaria che impedisce la circolazione e anche le lezioni di persone in università, chiedo di recedere dal contratto. Tenete conto che è necessario un preavviso nelle locazioni per studenti universitari comunque di 3 mesi. Quindi sì, io per 3 mesi sono tenuto a corrispondere al canone di locazione comunque, certo, per 3 mesi. Infatti qualcuno ci ha segnalato, beh, ma mi sta scadendo, magari sono a, non so, 4 mesi, boh, insomma forse non vale neanche la pena. Allora in questo caso ci conferma, avvocato Rezzonico, se siamo vicini alla scadenza del semestre. Sì, siccome la scadenza semestrale, appunto, magari un contratto di 6 mesi eccetera, la scadenza c'è, a questo punto tanto vale dal punto di vista pratico concentrarmi sulla scadenza di fine rapporto e quindi dire non ho più interesse, certo, e quindi mando la raccomandata. Telegrafico su un'ultima cosa, ridurre l'importo del canone? Ridurre l'importo del canone è possibile, però il punto è che non c'è un obbligo, io faccio un mestieraccio, nel senso che purtroppo il diritto è arido tante volte, quindi non è che ti consente. Allora io dico, in punto di diritto non è obbligato il locatore a venirti incontro. Sì. Personalmente se fossi un locatore ci ragionerei, perché allora in via contrattuale con mutuo consenso delle parti è possibile dire guarda, ti do una mano per i mesi in cui non hai usufruito dell'immobile e conservo il contratto a partire da settembre. Certo, grazie. Tenete conto che questa cosa ovviamente si trasmette al cubo anche alle locazioni commerciali, locazioni abitative, quindi in questo momento è una situazione davvero delicata. Infatti ne abbiamo parlato anche in altre puntate, io le direi, avvocato Rezzonico, non lasci il paese, non lasci la città, resti a disposizione di due di denari, perché avremo ancora bisogno dei suoi chiarimenti. Debora, siamo in ritardissimo, andiamo a vedere cosa fanno oggi quei capricciosetti dei mercati finanziari, le borse. Chiedo scusa, io ho comprato le birenzine e ci ho guadagnato un sacco. Grazie Manera. Due di denari. Buongiorno Due di denari. A proposito di reddito di cittadinanza, ma non è possibile convogliare verso la raccolta dei prodotti agricoli in questo momento tutti i percettori di reddito di cittadinanza fino a una certa età ed abili? Grazie. Ma il recesso per il contratto degli affitti degli studenti è una semplificazione banale, perché gli studenti dovranno successivamente ritornare nelle loro sedi per seguire le lezioni, e allora a quel punto cosa dovranno fare? Dovranno cercare nuovi alloggi, nuove stanze a nuovi prezzi? Non mi sembra questa la soluzione. Ma sai Mauro che stavo pensando? È un po' come la situazione che si è creata ieri quando abbiamo parlato della sospensione dell'RC auto, no? Chiaramente con questa emergenza tutti possibilmente vorrebbero pagare il meno possibile, soprattutto per servizi di cui non si fruisce. Certamente. E però ieri dicevamo con i nostri esperti, ma se l'auto ti serve da un momento all'altro è ovvio che la devi rimettere in moto, non è che puoi chiamare l'assicuratore e dirgli riattivami l'assicurazione da domani mattina. Adesso magari allargando un po' lo spettro, forse il parallelismo si può fare anche con la casa. È ovvio che noi speriamo che i ragazzi possano tornare quanto prima all'università e poi avranno di nuovo bisogno di un alloggio e poi eventualmente correranno il rischio di dover cercare un'altra casa, di rinegoziare altri prezzi, e oppure in alternativa mantengono queste abitazioni, un affitto magari rinegoziato. Qua credo che si, a prescindere poi dalle indicazioni date dall'avvocato Rezzonico, si brancoli un pochino nel buio e ancora vada avanti, come dire, la questione della trattativa individuale e privata con i singoli proprietari. Penso che il buon senso debba un po' animare anche queste situazioni. Credo che sia la miglior misura, Debora, perché ovviamente ci stanno scrivendo anche via WhatsApp dei diversi proprietari che dicono ma io piuttosto riduco un pochino il canone, insomma vengo incontro a questi studenti, se uno chiaramente pensa che lo studente resterà ancora in quella sede, certo, per diverso tempo, diciamo un po' di mesi, magari qualche anno. Chiaramente la situazione è diversa se uno è arrivato quasi in scadenza o comunque aveva l'affitto solo la stanza in affitto o l'appartamento in affitto solo fino a tutto il 2020, allora in quel caso magari sta valutando una cosa diversa, magari per il suo rientro ha finito i corsi, che ne so, le situazioni possono essere tante, così come tante, secondo me, cara Deborah, sono le situazioni che si presentano per Giovanni Calabrò, che è il direttore generale per la tutela dei consumatori alla AGCOM e che abbiamo il piacere di avere collegato con noi questa mattina. Buongiorno, dottor Calabrò. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Avete molto lavoro in questo periodo? Sappiamo che, come ha detto Deborah, la mamma dei furbi purtroppo è sempre incinta. Immaginiamo che in queste condizioni poi i suoi figlioli si siano anche dati particolarmente da fare. Sì, questo sì, perché in questa fase emergenziale chiaramente la fantasia è fervida e abbiamo avuto molte segnalazioni riguardanti soprattutto il mondo dell'online, dove ci sono dei vanti talvolta ingannevoli su efficacia terapeutica o diagnostica riferita a vari prodotti, tra l'altro proposti a prezzi particolarmente elevati. Quindi noi siamo intervenuti subito circa un mese fa nei confronti delle principali piattaforme online, chiedendo innanzitutto la loro collaborazione per cercare di arginare il fenomeno. E grazie anche all'uso degli algoritmi le piattaforme sono attivate e sono state in qualche modo eliminate le offerte anomale, eccessive, per alcuni igienizzanti o prodotti analoghi venivano chiesti prezzi folli, ma anche su altri prodotti che erano necessari alla luce dell'emergenza, ecco, che non vi fossero dei vanti, perché qualcuno diceva usa questo prodotto, addirittura questo farmaco e riesce a evitare il coronavirus. Insomma, siamo arrivati veramente a dei vanti assurdi. Stavo guardando, Mauro, che hanno anche oscurato, per esempio, tra gli altri, questo sito che si chiama farmacocoronavirus.it, che vendeva questo farmaco generico, il Caletra, a 634 euro. Quindi non è che andavamo in cerca, i consumatori vanno in cerca di informazioni nel caso in cui fossero disponibili dei farmaci per proteggerci da questa epidemia, ma erano pure disposti a spendere un sacco di soldi, perché se l'antitrust deve arrivare ad oscurare un sito che propone qualcosa del genere, significa mercato. Immagino, dottor Calabrò. Sì, lei pensa che noi non solo abbiamo dovuto oscurare il sito cui lei fa riferimento, ma poi lo stesso farmaco si trovava su altri siti e quindi l'autorità di domenica si è dovuta riunire e diciamo in via emergenziale disporre l'oscuramento anche di ulteriori siti, e addirittura oggi ha fatto una comunicazione ai principali motori di ricerca chiedendo la loro collaborazione, perché chiaramente è possibile spostarsi, come ben sapete, nel mondo dell'online da un indirizzo all'altro, e quindi addirittura abbiamo avuto la segnalazione da parte del gruppo speciale antitrust della Guardia di Finanza che ci assiste di oltre 361 indirizzi, cioè 360 indirizzi URL in cui era possibile trovare lo stesso farmaco. A questo punto è impossibile ovviamente rincorrere e oscurare tutti i siti, è necessaria la collaborazione di chi in qualche modo governa la rete e grazie alla consultazione che ognuno di noi fa ha la possibilità ovviamente anche di intervenire e di deindicizzare quando si tratta di prodotti che vengono venduti con una modalità che non è consentita in Italia, perché ricordiamoci che questo farmaco non può essere commercializzato da farmacie online non autorizzate in Italia. Io vorrei porre una domanda un po' doppia. C'è stata una fase, ce la ricordiamo tutti, qualche settimana fa, di esplosione dei prezzi, lo citava lei poc'anzi, per alcune caratteristiche, alcuni dispositivi di protezione individuale, che fosse il disinfettante, i guanti, eccetera. Adesso, in previsione di una fase 2 che speriamo veda una maggiore libertà di movimento e apertura, riapertura di attività, mi immagino che le aziende avranno una grossa necessità di procurarsi questi dispositivi di protezione individuale. Allora la domanda è: chi avesse subito qualche eccessivo esborso nella fase precedente o chi adesso si imbattesse importi eccessivi, cosa può fare rispetto all'autorità garante? Dunque, se l'acquisto, come io immagino, è stato effettuato almeno nella prima fase online, anche perché non vi era una disponibilità, come ben sapete, facilmente accessibile, no, nei locali commerciali tradizionali, penso alle farmacie o altri luoghi, è chiaro che è possibile segnalare all'autorità. Però noi chiaramente vediamo l'aspetto prezzo anche un po' collegato alla modalità di vendita e al claim, quindi all'affermazione, al vanto pubblicitario. Quindi la mera indicazione di un prezzo elevato non sempre giustifica un intervento antitrust, ma questo è un tema aperto e devo dire che proprio su questo il prezzo eccessivamente elevato di alcuni prodotti, dispositivi che lei ha ricordato, e anche altro oggetto di una riflessione che il collegio dell'autorità sta compiendo, una riflessione più ampia che il presidente Rustichelli e il collegio composto dal professor Ainis e l'autoressa Muscolo sta effettuando. Però chiaramente io non posso anticipare in questa sede, ovviamente considerazioni verranno svolte. Per noi che siamo un'autorità di concorrenza oltre che di tutela del consumatore, è chiaro che vorremmo un mondo, no, in cui i prezzi si formano liberamente, ma siamo in una situazione emergenziale, per cui anche noi siamo chiamati a dare il nostro contributo. Segnalare l'autorità è molto facile, perché è possibile farlo online e accedendo al nostro sito immediatamente c'è un segnale online e una segnalazione in forma libera e senza alcun costo, diciamo, per il segnalante. Poi chiaramente le segnalazioni vengono trattate, noi abbiamo costituito un gruppo di lavoro che abbiamo chiamato Task Force, ma che è composto dai responsabili delle tre direzioni settoriali che con me collaborano, Berti, Ferrero e Grenga, e cerchiamo di trattare in tempo reale le segnalazioni. È ovvio che sono centinaia e quindi non possiamo dare una risposta sempre immediata a tutti. Allora vi fermo un attimo perché adesso ci sono le informazioni sulla viabilità. Il sito a cui faceva riferimento il direttore Giovanni Calabrò è www.agcm.it. Adesso il traffico. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Due di denari. E allora Mauro, questa mattina stiamo conversando con l'autorità garante del mercato e della concorrenza, con il dottor Giovanni Calabrò, che ci racconta come l'autorità in questo periodo stia intervenendo naturalmente a tutela del consumatore, consumatori che in questo periodo sono stati anche molto attivi a sostegno di iniziative di raccolta fondi, e è emersa proprio nell'ambito di tutte queste iniziative un'attività non proprio trasparente di una grande piattaforma mondiale di crowdfunding, GoFundMe, che si è scoperto funzionare sì regolarmente ma non molto trasparente nel meccanismo di raccolta, nel senso che, dottor Calabrò, si faceva pagare per questa attività e voi siete dovuti intervenire anche nell'ambito appunto di tutto questo. Come avete scoperto sostanzialmente come funzionava e poi appunto che tipo di intervento avete fatto? Guardi, l'abbiamo scoperto sulla base di alcune segnalazioni e siamo intervenuti anche in questo caso immediatamente, visto che ovviamente c'era un'attività molto importante di raccolta in corso, con un provvedimento cautelare che è stato deliberato circa un mese fa dall'autorità, e devo dire che la piattaforma ha collaborato e quindi ha rimosso un meccanismo che prevedeva l'applicazione di una TIP, di una FIZ, di una commissione automatica del 10% sulle somme donate. Ovviamente il 10% è una somma di una certa entità, uno può liberamente disporre se darla o no, ma qui c'era un meccanismo che prevedeva una preimpostazione, preflaggato, quindi sostanzialmente in automatico chiunque faceva la donazione tendeva a dare anche questo 10%. Per evitare ovviamente di dare questa mancia, questa TIP, doveva fare una serie di attività che non tutti sono riusciti a fare. Devo dire che GoFundMe ha collaborato e quindi sostanzialmente il meccanismo è stato rimosso e adesso stiamo valutando il procedimento del merito, ma abbiamo, diciamo, avuto piena ottemperanza alla fase cautelare e abbiamo motivo di ritenere che, insomma, anche le somme ulteriormente riscosse siano andate poi nella giusta direzione. Ma se uno ha versato e in qualche modo non se ne è accorto, può chiedere qualcosa, può avanzare qualche richiesta? Perché certo, adesso non ne farei solo il caso di GoFundMe, perché spesso queste piattaforme di crowdfunding, cioè di raccolta di donazioni, eccetera, prevedono una sorta di compenso anche di, non so, lei l'ha giustamente chiamata fee con il termine inglese, e di compenso per l'attività della piattaforma stessa, che chiaramente ha dei dipendenti e ha necessità pure lei di mantenersi. Ma se uno appunto ha pagato un 10%, che non è pochissimo, che può fare? Può chiedere in qualche modo alla piattaforma di risarcirlo? Può chiedere appunto la restituzione della somma, o può chiedere che sia aggiunta alla somma donata. Insomma, deve essere chiaro che questo 10% o una somma diversa data alla piattaforma non può essere attribuito come costo, come fee, come tip, addirittura mancia all'americana, senza un consenso esplicito del consumatore, che non si deve trovare la casella preimpostata. Chiaramente il procedimento è ancora in corso, ma ci sono degli indirizzi, degli impegni in questo senso da parte della piattaforma, quindi io credo che la questione verrà sicuramente risolta, però chiaramente coloro che hanno donato sono molti, e c'è chi vorrà le somme indietro, chi vorrà che magari si aggiungano alla donazione effettuata, quindi ancora c'è un'attività in corso su cui ovviamente non mi posso esprimere in via definitiva, ma insomma l'impegno della piattaforma è di risolvere questa problematica in maniera tale che non ci siano strascichi. Poi chiaramente le piattaforme sono tante, quindi insomma, certo, o la stessa piattaforma ovviamente ha fatto tante iniziative. Però ecco, quello che è importante è un po' la regola generale, e se ci sono dei costi devono essere evidenziati, non ci possono essere, specie in questo momento emergenziale, su donazione anche di un certo importo, delle commissioni automatiche che sembrano insomma prima facie elevate, specie se non scelte liberamente dal consumatore che effettua la donazione. Ecco, a proposito di questo, dottor Calabro, l'attività si attiva su sollecitazione delle associazioni dei consumatori che rappresentano intere platee di consumatori, ma noi possiamo intervenire anche su di voi in via individuale. Può essere un singolo consumatore che vi segnala qualche fenomeno a seguito del quale poi voi potete indagare e di conseguenza intervenire. Quanto è cresciuto anche il mondo della consapevolezza del singolo consumatore sulla vostra attività e sull'efficacia della vostra attività? Guardi, noi riceviamo complessivamente annualmente da segnalatori, da segnalanti singoli, migliaia di segnalazioni, quasi 10.000, quindi il numero di segnalazioni è molto elevato. Solo una parte diciamo importante, ma non certo principale, di queste provengono dalle associazioni dei consumatori. La differenza ovviamente è che quelle delle associazioni molto spesso, a seguito di un filtro, raggruppano precedenti segnalazioni, quindi sono più articolate, ma noi tendiamo a dare una risposta quando viene evidenziato un fenomeno di cui appunto percepiamo la rilevanza, anche alla segnalazione che arriva online del singolo segnalante, quindi questo dopodiché i dati che noi abbiamo sono ovviamente sempre soggettivi, quindi sono ovviamente dati che noi abbiamo dal nostro call center che si può chiamare per essere aiutati, non per effettuare la segnalazione, ma per essere aiutati nel caso si abbia qualche dubbio quando si fa la segnalazione, e il riscontro è positivo. L'intenzione dell'autorità è quella di rafforzare anche il call center, vista la fase emergenziale, in maniera tale da poter dare anche maggiori risposte telefoniche avendo sufficienti risorse. Il call center ha un suo numero di telefono che è noto, che è sul sito e al quale ovviamente si può fare ricorso la mattina dalle 8 alle 14 nei giorni feriali, se c'è qualche dubbio, se uno non sa se fare o meno una segnalazione. Ma noi preferiamo le segnalazioni scritte perché chiaramente ci consentono la trattazione immediata da parte degli uffici. Allora, a questo proposito, siccome qualche messaggio di qualche ascoltatore mi fa pensare di non essere stato chiaro, il sito dove segnalare abusi, possibili abusi, richieste di importi eccessivi per qualche, non so, mascherina o guanti o cose del genere, il sito è quello dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, lo trovate su internet a questo indirizzo www.a GCM, sarebbe Ancona, Genova, Como, Milano.it. Mi hanno chiesto, appunto, un ascoltatore mi chiedeva, per favore fate lo spelling, non è il sito che è stato oscurato, questo è il sito che ci difende dai furbi e dalla, come dire, da tutte le loro furberie e tentativi di metterci ancora non ci hanno oscurato. No, e speriamo che non lo facciano. Dottor Calabrò, senta, allora, visto che abbiamo citato qualche caso ma non abbiamo detto i nomi che avete oscurato nella vostra recente attività, ma ci dà qualche suggerimento per poter così capire se il sito ha un approccio un po' non proprio chiaro nei nostri confronti e quindi possiamo eventualmente segnalarvelo come sito potenzialmente truffaldino? Certo, la segnalazione può essere ovviamente anche di una potenziale pratica commerciale scorretta e noi facciamo le verifiche, perché chiaramente talvolta la percezione soggettiva non corrisponde alla realtà. Però devo dire che i consumatori sono molto attenti e talvolta magari effettuano l'acquisto d'impulso e poi si rendono conto che effettivamente il vanto non corrispondeva alla realtà. Pensate, in questo momento non è una questione solo di farmaci, è una questione dei prodotti più vari, appunto sono stati ricordati da voi stessi igienizzanti, mascherine. Quindi dispositivi per la difesa, ma pensiamo agli integratori, insomma qui apriremo ovviamente una puntata ad hoc che non mi sento di anticipare, però sicuramente ci vuole grande attenzione da parte del consumatore e quando ci sono gli estremi senz'altro è possibile segnalare anche un caso che poi risulta solo potenziale e noi ovviamente lo esaminiamo, se non ci sono gli estremi viene archiviato, come purtroppo accade nella grande maggioranza dei casi, perché vedo sono migliaia le segnalazioni e noi riusciamo a fare in un anno poco più di un centinaio di procedimenti, perché anche le risorse ovviamente sono limitate e destinate ai casi principali. Però sull'emergenza coronavirus, con questa task force ovviamente c'è una priorità e cerchiamo di dare in tempi rapidi, questa è la volontà del Collegio del Presidente Rustichelli, una risposta diciamo la più veloce possibile a ogni singola segnalazione ovviamente fondata. Un'indicazione di servizio, allora le segnalazioni, come abbiamo sentito dal direttore Giovanni Calabrò, sono preferibilmente online, andando sul sito dell'autorità garante per segnalare online, volendo però si può anche utilizzare la posta ordinaria o scrivere a una casella di posta elettronica, certo. Giusto? protocollo.agcm@pec.agcm.it. Trovate tutte queste indicazioni sul sito. Io volevo chiederle un'altra cosa. In questo momento ci sono anche delle così proposte commerciali di, lei ha citato gli integratori, diciamo pseudofarmaci o cose del genere, che promettono cose che non possono ovviamente mantenere, tipo proteggere dal Covid-19. Posso segnalare anche cose di questo tipo alla vostra all'autorità? Certo, e ne abbiamo vari, siamo intervenuti anche oscurando qualche sito che proprio promuoveva questi prodotti, un caso appunto sempre di un mese fa, dal sito Carlita Shop, ora al di là del singolo nome, proprio di un sito che promuoveva integratori, prodotti, attribuendo loro dei vanti che ovviamente non corrispondevano alla realtà. D'altronde stiamo ancora cercando il farmaco giusto, è difficile che risolva il problema un integratore. Questo, certo. Tra l'altro Deborah, ricordi quando c'era stato il caso di Libra, che non c'entra nulla con il Covid, ma appunto c'era qualche sito che diceva che era possibile investire in questa nuova moneta, in questo nuovo moneta digitale, moneta elettronica, che ancora non esisteva, e però qualche sito appunto si accaparrava i risparmi delle persone dicendo che avrebbe potuto comprare Libra. Prego Deborah, abbiamo un minuto. Un'ultima e poco. Domanda, dottor Calabrò, stiamo modificando le nostre abitudini di consumo. Molti di noi preferiscono non fare la coda al supermercato, fare la spesa online. In questo periodo si sono molto intensificati i traffici appunto in questo senso. Voi come autorità garante del mercato state la crescita di questo fenomeno affinché le persone anche in questo caso non rimangano vittime di disavventure, magari affidandosi a siti di consegna a domicilio della spesa che però non sono magari autorizzati o non lavorano? Sì, non abbiamo segnalazioni specifiche, però diciamo è chiaro che anche uno dei fenomeni che stiamo seguendo e ovviamente rientra nella tematica più ampia su cui invece abbiamo fatto tanti interventi, che della mancata consegna di ciò che viene ordinato, e questo purtroppo nel mondo dell'online capita spesso. Si pensi alle vendite piramidali di cui voi pure avete trattato, o alla vendita, non so, di prodotti di vari tipi, penso all'elettronica, no? A prezzi particolarmente vantaggiosi, salvo scoprire che il prodotto non arriverà mai perché il venditore non è in grado ovviamente di fornire una platea così estesa. Ancora non l'abbiamo per fortuna sulla spesa ordinaria, ma e speriamo non ci sia, però diciamo ovviamente siamo attrezzati, essendo il mondo dell'online, per dare una risposta anche a questo. Grazie, grazie al direttore Giovanni Calabro, direttore generale della tutela dei consumatori all'autorità garante della concorrenza e del mercato. Cara Deborah, noi torniamo domani a questo punto. Direi mercoledì, allora, parleremo ancora di lavoro. Benissimo, grazie a Andrea Roccabella, Laura Faggin e Marco Lombardo. A domani.